dissero in agosto, ci vediamo giù al paese, un abbraccio ed un sorriso, Giambattista Ottavionello, ci vediamo per la festa in agosto a Militello. Era il 15 di agosto, come sempre in ogni anno, con la gioia del ritorno, con gli occhioni scintillanti, al ritorno al paesello, tre ragazzi, tre migranti. Corri, corri, su fai presto, sento già l'odore di casa, quattro curve ancora e poi c'è lo stretto che ci aspetta. Ci imbarchiamo e questa notte dormiremo a casa nostra. E domani il campanile del paese ci ridesta, e nel mezzo della festa ci saremo pure noi. Ci sarà anche Antonietta, ha promesso che mi aspetta, qualche anno di Germania, qualche anno ancora via, poi sarà la moglie mia. Una 124 con la targa di Germania è andata fuori strada, si è incendiata, fracassata. C'erano dentro tre ragazzi sui 18, sui 20 anni, tre ragazzi siciliani, Giambattista Ottavionello, tutte e tre da Militello. E mi dissero in agosto, ci vediamo giù al paese, c'è la festa là in agosto, c'è la festa a Militello. Ma quest'anno non ho visto Giambattista Ottavionello. La la la.